siamo? Let's go! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, e devo stare un po' da sola. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo, e non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Non è facile pensare di stare con una persona per tutta la vita. Sono confusa. Sono confusa. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare. Beh ragazzi, al di là dell'Italia della pallanuoto, di cui tra poco parleremo, che sta vincendo la semifinale contro la Russia, e per i puristi questa è l'unica cosa che conta, e aspetto bacchettate sulle orecchie per questo ingresso. 800240024, invece di una tambureggiante radiocronaca da Rio de Janeiro, che tra poco comunque ci farà Dario Ricci, non vi preoccupate. La notizia del giorno, io ringrazio Claudia Schiattone, il nostro autore, di cui avete sentito ora la voice, faceva una sorta di voice over della cinese He Zi. Io posso fare il voice over del cinese Qin Kai, cornudo e mazziato, ma io credo di aver fatto la cosa giusta, bravo. La notizia del giorno è questa conferenza stampa congiunta dei due futuri, forse, magari, vediamo, sposi, dopo la dichiarazione d'amore sul podio dell'altra sera, una delle storie che più mi ha appassionato in questa Olimpiade. Perdonatemi se sono un po' blasfemo, però oggi è stata questa conferenza stampa congiunta abbastanza imbarazzante, in cui He Zi diceva le cose che avete sentito guardando dall'altra parte, non certamente negli occhi del suo innamorato. Comunque, 800240024 numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS o WhatsApp, anche vocali. Noi stiamo cercando una nuova fidanzata per He Zi. Se volete farvi avanti, mandate WhatsApp vocali. No, per He Zi, per Qin Kai, cioè il nuotatore che si è così esposto mediaticamente, tuffatore si è così esposto mediaticamente con questa dichiarazione d'amore. Stiamo cercando una nuova compagna perché siamo molto in pena per lui. Però adesso, mentre sta per cominciare l'ultimo periodo della semifinale di pallanuoto femminile tra Italia e Russia, andiamo alla piscina di Rio. Dario Ricci. Carlo, ben trovati. È iniziato da 12 secondi l'ultimo periodo, l'ultimo tempo di gioco della semifinale tra Italia e Russia. Azzurre nettamente avanti per 8-4. Erano partite male le italiane con la Russia, subito avanti 2-0 dopo il minuto 46 con le reti di Ivanova e Gorbunova. Poi ci ha pensato una splendida Arianna Garibotti a trascinarci alla rimonta e poi al sorpasso, pensate, per lei ben 4 reti e un assist in questo 8-4 che ci fa intravedere la 25esima medaglia della nostra spedizione. E pensare ora, che Dario, pensare che l'Italia era partita male in questa gara, Sì, decisamente male, perché subito il 2-0 per le russe, come ricordavamo, con le reti di Ivanova e Gorbunova, poi in 37 secondi effettivi la doppietta di Garibotti, il primo gol con una splendida palombella che poi ha ripetuto anche nel terzo quarto, ci ha rimesso in linea. Poi un nuovo allungo, siamo arrivati sul 4-2 grazie alla rete di Tabani tirata sempre da Garibotti e al rigore di Biancon. C'è stato poi il pareggio russo firmato da Lisunova e Zurigina e poi finalmente l'allungo con la doppietta ancora di Garibotti e l'assolo di Radicchi e di capitan Tania Di Mario, che a 2 minuti dalla fine del terzo periodo ha siglato l'8-4 che finora ci sta avvicinando alla finalissima. Beh Dario, adesso senza voler portare sfiga a nessuno, però se leggiamo il parziale è 8-2 dopo l'avvio da 0-2 delle russe. L'Italia sta giocando molto bene, soprattutto in difesa. Ha sfruttato in maniera praticamente perfetta ogni superiorità numerica. Adesso mancano 6:24 alla fine e molti staranno facendo gli scongiuri, molti dei puristi come chi mi scrive che sono imbarazzante come Andrea da Venezia, ringrazio, tanti perché ragazzi volete vedere le Olimpiadi, accendete la Rai, le guardate pagando il normale canone. Volete sentire delle storie olimpiche o volete parlarne insieme? Allora chiamate Radio 24, 800 24 00 24, è il numero verde. Adesso la Russia va a segno, quindi ho portato immediatamente sfiga a Dario. Beh, sì, è arrivato l'8-5 della Russia, bella azione manovrata con Lisunova che già aveva segnato la rete del 4-3. Però è un'Italia che sembra in controllo, ricordiamo Carlo che con la Russia già avevamo giocato nel girone di qualificazione alcuni giorni fa, netta in quell'occasione, anche in quell'occasione la vittoria azzurra per 10-5, ma questa è chiaramente tutt'altra partita visto quello che c'è in palio. Sì, A parte il momento difficile iniziale, come ricordavi, poi l'Italia è tornata subito in bolla e adesso siamo in una situazione di controllo, però... Ecco, palla Frassinetti in centro boa, conquistiamo un fallo quando abbiamo ancora 20 secondi per l'azione d'attacco, il pressing russo ci allontana dalla porta difesa da Ustichina, palla ancora che arriva verso Frassinetti che prova a girarsi il fallo sulla nostra centro boa, rimaniamo in attacco con un'altra occasione di superiorità numerica visto che nel pozzetto va Soboleva in questo istante. E sono 5:45 alla fine di questa partita, c'è chi mi propone, Enrico, di chiamare Bobo Vieri per proporre il calcio tennis come sport olimpico, eviterei, ma poi abbiamo un appuntamento telefonico con un suo caro, non suo, nonché mio caro amico da Formentera, ma ne parliamo più tardi. Mentre c'è l'Italia che colpisce un palo in superiorità numerica, Italia della pallanuoto che conduce 8-5 a 5:24 la conclusione, la superiorità numerica si è ora conclusa per le italiane nei confronti della Russia, ma l'Italia ancora manovra il pallone in attacco. Che altro è successo oggi, Dario, prima di andare sul finale di questa partita? Intanto abbiamo fatto un gol. Una splendida palombella che infila alle spalle di Kustina, quindi andiamo avanti per 9-5, Carlo, e davvero questa finale è sempre più vicina, mancano 5 minuti e 4 secondi alla sirena finale e alla finalissima della nostra 25esima medaglia. La Russia riparte, beh, per altro successo abbiamo conquistato una finale nel K2000 con la canoa, si stanno svolgendo i quarti di basket, ma ti confesso che tutta l'attenzione è su questa piscina e su questa partita, perché queste ragazze meritano davvero questa finalissima che si avvicina nel pomeriggio. Intanto arriva il 9-6 per la Russia. Arriva 9-6 per la Russia. Allora facciamo così, Dario, noi siamo in tempo di notizie sul traffico, tu ovviamente stai collegato, tra poco arriverà anche Leo Turrini, vivremo insieme la finale di questa gara che ci può dare la finale olimpica della pallanuoto femminile, mentre lo stesso Andrea da Venezia di cui sopra dice: ma chi lo paga il canone? Allora io sono imbarazzante, tu il canone non lo paghi, poi mi scrivi: i giornalisti degli anni 80 e 90 erano molto più professionali, siamo nel 2016, accontentiamoci così. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Tutti convocati alle Olimpiadi che vi fa compagnia ogni sera, spero, dalle 18 alle 20 in tempo olimpico, quindi fino a venerdì, poi domenica super appuntamento dalle 17 alle 20 per il finale dell'Olimpiade e per l'inizio del campionato di calcio, ma di questo avremo modo di parlare. Di nuovo un flash da Dario Ricci dalle piscine olimpiche, dove c'è l'Italia della pallanuoto in vasca per la semifinale contro la Russia. Dario. 3:22 alla fine, siamo ancora avanti 9-6, ma la Russia prova a stringere i tempi, stringere il pressing, ora arriva il 9-7, attenzione, il 9-7 per le russe con la numero 3, Prokofieva. È stata un'azione di contropiede rilanciata dal fatto che il pressing russo praticamente ha paralizzato il nostro attacco in queste ultime tre azioni. Prokofieva si è trovata su per su con il nostro portiere Torlero e l'ha infilata di distesa sotto misura. 3:17 alla fine, 9-7, è il momento di mantenere i nervi saldi e recuperare il controllo del gioco, come è stato finora tra l'altro in questa sfida. Adesso riproviamo. Purché non ci venga il braccino a 3:09 dalla conclusione, siamo ancora avanti di due gol. Saluto Leo Turrini, ciao maestro. Come andiamo? Tutto bene? Sì, tutto bene, adesso vediamo. Scusami se ti disturbo mentre stai guardando la pallanuoto femminile, ma lo stiamo facendo anche noi. Che ma io guarda, la sto seguendo lavorando dalla duro. Palestra, il Maracanazzigno, sì. Perché qui sta per cominciare tra poco Stati Uniti-Polonia del volley maschile, dove uscirà, speriamo, l'avversario dei nostri azzurri, se poi loro batteranno l'Iran nel quarto di finale. Sì. Perché adesso questa fase finale olimpica si sta tingendo di azzurro con le squadre, no? Sì, intanto c'è un altro gol italiano, Dario Ricci, 10-7. Garibotti, ancora lei, situazione di superiorità numerica, trova la rete con un bel destro dai 4 metri e brucia Ustitina, e allora il gol di Garibotti, 10-7. Respiriamo, 2:42 alla fine, forza ragazzi. Ma io sono, ragazzi, io sono tranquillo e fiducioso come Leo Turrini, anche perché se vinciamo e mancano 2:34 alla fine, siamo sopra di 3 gol, 10-7, bene. Se perdiamo ci lamentiamo, perché la Russia alle Olimpiadi, come qualcuno ha già cominciato a fare, date un occhio alle medaglie d'oro della Russia fino ad ora. Su 12 medaglie, 11 sono state conquistate in sport, dove il verdetto è affidato ad una giuria: scherma, judo, lotto, ginnastica artistica, nuoto sincro e pugilato. Non so se hai sentito quel pugile irlandese che è stato giudicato sconfitto contro un russo, sì. E ha detto che Putin, ha detto l'irlandese, controlla la Federbox mondiale, no? Che lo sanno tutti che si tratta di uno scandalo gigantesco e che è impossibile fare pulizia a certi livelli perché le ingerenze politiche sono troppo forti. Io pensavo che Putin si limitasse al judo, tanto che è un praticante sul tatami, ma sai, guarda, le sue abbiamo anche al ring, e allora vuol dire che insomma è un uomo dalle infinite risorse. Ah certo, abbiamo anche la voce di questo pugile irlandese che ha detto anche: pur di non tornerò alle Olimpiadi neanche per un miliardo di dollari, per un fantastigliardo di dollari. Sentiamolo. They're known for being cheats, and they'll always be cheats. Amateur boxing stinks from the core right to the top. Quindi è questa una delle storie olimpiche di oggi, anche se vi ho detto che la mia preferita, poi ne abbiamo un sacco di altre da far raccontare a Leo Turrini, anche se la mia preferita rimane comunque quella storia d'amore che ha preso una brutta piega tra i tuffatori cinesi, ma di questo torniamo a parlare subito dopo la fine di questa partita. La cronaca ci impone, il cuore ci impongono di seguire il finale di Italia-Russia. Siamo 10-8 a 1:41 dalla fine di questo incontro, cui lasceremo a Dario Ricci il racconto degli ultimi secondi. Intanto Leo, altro tema di cui parlare, il beach volley, cui tu sei, bravo, di cui tu sei affezionato, sono stato cliente ieri, sì. Notte, perché gli azzurri hanno giocato alle 11 di sera ora brasiliana in uno scenario indescrivibile, perché poi dopo di loro c'era Brasile, la coppia brasiliana del beach femminile, e quindi c'era un delirio di gente, perché qui, come lo chiamano loro, il volley da praia ha una popolarità pazzesca. Però io devo fare una domanda al mio amico Carlo Geda. Dica. Tu ricordi Mario Scopigno? Ma certo che ricordo Manlio Scopigno, allenatore allora, del Cagliari. Allora diciamolo perché... per i giovani, sì. Per quelli che potrebbero essere i miei bisnipoti. Era l'allenatore del Cagliari, che vinse lo scudetto certo. Nel calcio 1970 con Gigi Riva. Questo Scopigno, vedendo la prima partita dell'Italia al Mondiale messicano, con in campo lo stopper del Cagliari, che si chiamava Comunardo Nicolai, disse: tutto avrei creduto in vita mia, ma non di poter vedere Comunardo Nicolai in diretta via satellite. Ora io vi dico, da cultore del beach da tempo immemorabile, poi se vuoi ti spiego, tutto avrei creduto in vita mia, ma non di vedere Nicolai con una C sola a giocare per l'oro del beach. Questa è una delle imprese più grandi dello sport italiano, perché guardate che il beach volley ha una celebrità adesso non ti allargare, negli dai. Stati Uniti, adesso, per via della California, pazzesca. I campioni non italiani, di altre nazioni di questa disciplina guadagnano delle cifre enormi. Il beach alle Olimpiadi è stato ammesso nel 96 e fa i più alti indici di ascolto televisivi in America, come in ovunque. Uno potrà dire: ah, sono tutti maschi guardoni per vedere le belle donne, no? Uh-huh. Ma parte non è vero, solo quello, parte è che veramente ha un fascino questa cosa. Bellissimo. Colore, rumore, ha fatto gol l'Italia ancora, dimmi. Aspetta che facciamo, Leo, facciamo raccontare il finale di questa partita che vale una medaglia a Dario Ricci. Poi andiamo avanti con Nicolai Lupo. Dario, 54 secondi alla fine, 12-8, eccola lì la finale, veramente a portata di mano, Carlo. Stavamo 10-8, è arrivato un provvidenziale rigore di Bianconi per un fallo su Aiello a toglierci dall'imbarazzo, e poi pochi istanti fa il 12-8 di Cairolo con un tiro dai 7 metri, davvero imprevedibile anche per il portiere Ustipina. Adesso il 9-12 Russo con Soboleva, ma mancano appena 39 secondi alla fine, è il gol che ci fa meno male questo che abbiamo subito. 39 secondi alla fine, controlliamo questa palla, ci appoggeremo molto probabilmente parecchio sul capitano Di Mario, sul capitano Tania Di Mario, che è oro olimpico, lo ricordiamo, ad Atene nel 2004 ed è la donna d'esperienza di questo 7 rosa. Infatti il pallone proprio su di lei, che conquista un fallo, appoggia ora nell'angolo destro del nostro attacco su Emmolo, ancora il pallone per Di Mario, strattonata, un altro fischio a favore, mancano 28 secondi, 17 alla fine. Proviamo a far arrivare il pallone a Frassinetti, ora Bianconi che appoggia ancora su Radicchi, lo riusciamo a concludere con il tiro, ma mancano ormai 12 secondi, Dario, siamo in finale per la medaglia d'oro, che passa alla Russia, ma insomma è finale, 25esima medaglia, Russia in attacco, ma non può far più nulla. Ecco il conto alla rovescia della piscina olimpica, 2-1, eccola, è finale, 7 rosa in finale, 12-9 sulla Russia, 12-9 sulla Russia, la 25esima medaglia, sicuramente saranno argento, ma perché non sognare anche l'oro contro la vincente dell'altra semifinale tra Ungheria e gli Stati Uniti, grandi favoriti per il successo finale. Obbligatorio. Adesso godiamoci questa vittoria, le ragazze che si abbracciano a centro acqua. Qualcuno sta piangendo. Bellissimo. Ma è obbligatorio pensare a loro, soprattutto guardando quella ragazza, che ormai donna, che era in vasca nell'ultima medaglia d'oro della pallanuoto femminile ad Atene nel 2004, che si chiama Tania Di Mario, di cui abbiamo parlato ieri con Pierluigi Formiconi, che è stato il suo CT, l'ultimo CT d'oro della pallanuoto italiana, ancora la stessa faccia da ragazzina, ma è la condottiera di questa Italia d'oro. Dario Ricci, ci troviamo dopo. Intanto volevo proseguire con Leo Turrini, smaltita la emozione per questa altra medaglia, come minimo d'argento, che arriva dalla pallanuoto, e qualcos'altro aspettiamo dagli uomini. Siamo l'unica nazione al di qua dell'Adriatico ad aver mandato comunque una in finale, l'altra per ora in semifinale, tutte e due le squadre. Di cosa stavamo parlando, Leo? Stavamo parlando di Nicolai e Lupo. Di Nicolai e Lupo. Che quando da voi saranno le 5 di mattina della prossima notte, non questa, hanno la finale contro una coppia brasiliana, quindi è Italia-Brasile, capito? Questi due brasiliani sono come Zico e Falcao al Mondiale dell'82, eh? Sono due fenomeni. Uno, tra l'altro, a te dovrebbe essere molto caro, perché si chiama Schmidt ed è il nipote di Oscar, il grande cestista che giocò a Caserta e in altre realtà italiane, che alla cerimonia inaugurale ha portato la bandiera coi cinque cerchi. Perdonami se tra le altre realtà italiane anche nella mia città natale, cioè a Pavia. Sono i campioni del mondo in carica, sono i numeri uno del ranking internazionale, quindi sarà una cosa durissima. Però, finale perfetta per noi italiani, no? Finale perfetta per noi italiani, da underdog, da sfavoriti. Italia-Brasile è sempre un classico, no? In qualunque contesto. Certo, se uno pensa alle spiagge che hanno qui e alle nostre, è costretto ad ammettere che partiamo sfavoriti, no? Però insomma, andiamo a giocarci. Poi c'è questa storia di Lupo meravigliosa che adesso tutti hanno raccontato. Sai che l'anno scorso lui ha avuto un problema di salute, certo. Aveva un tumore, si è sottoposto a un intervento, per fortuna si è risolto tutto bene, è rientrato. E devo dire che Nicolai, quando ha raccontato dopo la vittoria di ieri sui russi, perché la partita si era messa male, no? Lì sulla sabbia di Copacabana, ha detto: ma stavamo sotto, ma ho visto lo sguardo del mio compagno e ho capito che ce la potevamo fare, no? Cioè loro adesso sono in una sorta di trance, perché non ci credeva nessuno che potesse arrivare così lontano. E perché no, insomma, voglio dire, se uno la mette a livello tecnico, sì, insomma, ho detto chi sono Allison e Smith, qui tutti si aspettano l'oro, verde oro, hai capito? E potremmo rovinargli la festa, ecco, sarebbe, no? Sarebbe carino da avere rompiscatole olimpici, sarebbe certo, meraviglioso. Io, senti, aspetta, insomma, Leo beh, posso dirti? Dimmi. No, c'è la borsa, però intanto io ti lascio con questa domanda di un ascoltatore che arriva via SMS, che è questa. Pensaci durante la borsa. Caro Leo, consiglieresti al nuotatore cinese con il cuore infranto di darsi al tappeto elastico per dimenticare e trovare la sua dong dong? Borsa, e torniamo con la risposta di Leo Turrini a questo arcano. Sì, la mia risposta è sì. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run. Convocati alle Olimpiadi. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, e devo stare un po' da sola. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo, e non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Oh. Non è facile pensare di stare con una persona per tutta la vita. Sono confusa. Sono confusa. Perdere l'amore quando si fa sera. Quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti urlare. Allora, a Leo Turrini ho fatto sentire anche la voce di Claudio Scattone, che conosce bene, autore di questo programma. Antonio da Napoli, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, salve, buonasera. Allora, mi faccio un favore. Prego. Visto che ha aspettato così tanto e ha fatto un favore a me, gliene chiedo un altro, così sono due, al terzo pago un caffè. Dica con voce da attore, credo di aver fatto la cosa giusta, lo dica. In maniera tragica? Sì, tragica, tragica, grazie. Credo di aver fatto la cosa giusta. Bravo. questa è la storia di oggi. Vabbè, abbiamo vinto 12-9 la semifinale della pallanuoto, meraviglioso, andiamo in finale, abbiamo battuto la Russia, eccetera. Però la notizia di oggi è questa. Hai sentito che è bravo Leo Turrini? Hai sentito Antonio da Napoli? Credo di aver fatto. Sì, una grande interpretazione. Grande interpretazione, perché questa è la storia. Kinkai, che si è preso questo due di picche in Mondovisione dalla sua amata Hezzi, cui aveva donato il brillocco sul podio olimpico in, appunto, in diretta in tutto il mondo. Antonio Dica. Allora, non per fare del cabalismo gratuito, ma sono amante dei calcoli. Mi domandavo, guardando il medagliere America, Cina, Italia, ma se impostiamo un calcolo di rapporto e proporzioni, numero di abitanti e superficie del paese, noi alla Cina e all'America non ce ne siamo visti proprio. Sì, è vero. Penso, no? Allora, cancelliamo Stati Uniti. Quanti cinesi sono a fare bravo, ma ha ragione. Ma ha ragione, facciamo due medaglieri. Stati Uniti 28, 30, 28. Chi se ne impippa? Tanto sono così tanti. Cina 17, 15, 18. Manco li vediamo. La Russia l'abbiamo appena battuta a pallavolo. Stiamo vincendo le Olimpiadi. Sono d'accordo con lei, Antonio. Leo Turrini. Beh, ma sì, è chiaro che ci sono sempre delle superpotenze in giro, gli americani, i cinesi, capito, che insomma fanno dei numeri che altre nazioni sono negati. Io penso che se guardiamo quello che è stato il nostro cammino finora, e qualcos'altro arriverà, è stato, come ci siamo già detti, almeno dal mio punto di vista, un'Olimpiade superiore alle aspettative, per gli ori che abbiamo vinto, per le presenze sul podio, per le tante storie belle che i nostri atleti, le nostre ragazze sono state in grado di proporre. E ti vorrei citare un amico, così gli facciamo gli auguri, che è Mogol. Sì, gli facciamo gli auguri, altro che. Gli facciamo gli auguri, altro che. E io penso che per le ragazze da pallanuoto, come per Nicolai e Lupo, sia perfetto il verso: per averti farei di tutto. Da per averti, di Celentano, no? Pensando alla medaglia d'oro, perché vanno a giocarsela queste ragazze, i nostri due spiaggiaroli, abbiamo sentito anche da Dario prima, non sono favorite nemmeno le ragazze della pallanuoto, ma insomma, senti, quando si arriva lì, no? Senti, ecco, facciamo un regalo. Non bisogna fare come Zico col tuffatore, capito? No. Senti, facciamo un regalo, ecco. Facciamo insieme, io e te un regalo a Gianni Mogol, no? Glielo facciamo, gli facciamo fare gli auguri da Yuri Checchi, portabandiera olimpico, uno dei più grandi atleti della nostra storia. Cosa dici? Poi glieli mandiamo. Yuri, ciao! Ciao a tutti ragazzi. Beh, gli auguri a Mogol li faccio con tanto piacere, perché insomma è un personaggio mitico, no? Della musica, della canzone italiana, e quindi assolutamente tanti auguri. Noi glieli mandiamo adesso studiamo il modo, ma lo conosciamo bene. Sentiamo cosa invece è successo ieri sulle pedane della ginnastica, poi ne parliamo. Ed è quarta, 14.766, quarto posto per Vanessa Ferrari, che però merita gli applausi. Però in stesso. È stata brava, non deve essere... Finisce così, tra le lacrime, la carriera straordinaria cominciata con l'oro ad Aarhus del 2006 di Vanessa Ferrari. Allora Yuri, questo è il lato B della medaglia che più mi è piaciuta in queste Olimpiadi, di cui sono più legato e più affezionato, cioè la prima di Cagnotto dalla Pè nei tuffi, proprio per la storia che si portava dietro. Quello era il lato A, questo è il lato B, quello di Vanessa Ferrari. Intanto fammi dire che sono proprio, guarda, sono, non vorrei farvi invidia, ma sono sulla spiaggia di Copacabana e a 20 metri da me c'è Tania e Francesca, quindi sono fortunato per un doppio motivo, ecco. È stata una medaglia bellissima questa delle due ragazze, come tanto bella quella di Tania, che ha concluso una carriera meravigliosa con questo bronzo, e sarebbe stato davvero un giusto coronamento se anche Vanessa avesse vinto questa medaglia di bronzo per coronare appunto una carriera stupenda di questa fantastica ginnasta. Purtroppo ieri era tutto pronto per questo, devo dire che lei non è stata perfetta, e questo quarto posto, a differenza magari del quarto di Londra dove c'era da recriminare qualcosa, questo quarto posto è corretto. Lei purtroppo ha sbagliato, ha fatto male l'uscita dell'esercizio dopo aver fatto la prima parte in maniera quasi perfetta, e quell'errore in una finale olimpica non te lo può permettere se vuoi vincere la medaglia. Quindi mi dispiace molto per lei, soprattutto per lei, perché era una medaglia che davvero coronava una splendida carriera. Però questo è lo sport, stiamo vivendo storie meravigliose, bellissime, alcune un po' meno belle, ma questa è l'Olimpiade, questo è lo sport. Mi dispiace molto per lei, ma dobbiamo accettare anche questo. Sì, però ascolta, Iori, tutti conosciamo la tua storia, tutta l'Italia, tutto il mondo conosce la tua storia. Adesso, oggi si parla molto, si va avanti o ci si ferma dopo una cosa di questo tipo? È molto difficile. Molto difficile, certo. Certo, ognuno ha le proprie motivazioni e sono queste che ti portano avanti. È solo una questione di motivazione. È vero che Vanessa non è più un'atleta giovanissima, chiaramente per gli standard della ginnastica artistica, ma se lei avesse le giuste motivazioni, se riesce a trovare ancora l'aggressività e la voglia anche di magari un riscatto per questa medaglia olimpica che mai arriva, lei ha tutte le possibilità per andare avanti, secondo me. Certo, però, ripeto, è molto difficile entrare nella testa, nel cuore di questi atleti, però dipende tutto dalle motivazioni. Io ho vinto un bronzo a 34 anni ad Atene con grande difficoltà perché ero fortemente motivato. Certo, certo. Questo è molto importante. Leo Turrini, cosa ne pensi? Ma intanto io devo scusarmi con Iori che ci siamo visti una sera a Casa Italia, mi ha detto dopo ti devo parlare, io sono affogato della caipirinha e non l'ho più visto. Maledetto. Quindi, che insomma, non sei altro. Adesso Iori recupereremo. Volevo sapere intanto se però Tania e Francesco si tuffano anche lì a Copacabana da un pedalò, oppure no? Hai detto che ci scherzi. Da un pedalò. Abbiamo fatto il bagno insieme e Tania, non sto scherzando, faccio uno scoop, ha fatto un tuffo. Siccome qui il mare è molto bello, però ci sono queste onde e dalla spiaggia diventa subito alto e io e Tania non siamo evidentemente delle altezze. Quindi insomma dobbiamo stare un po' attenti. Tania ha fatto un tuffo di pancia terrificante. È stata una cosa imbarazzante vedere Tania Cagnotto tuffarsi malissimo e quindi è stato bellissimo. Ma meno male però che ha finito carriera. Turrini, esatto. Questa la devi scrivere su tutte le tue 1000 testate, questa dichiarazione di Iori Checchi. Mi permetto quando Iori ci ha raccontato di Vanessa prima, no? Siccome ne abbiamo parlato ieri, no? Che anche in Italia c'è stato chi ha detto ma per le medaglie prendono troppi soldi di premio i nostri atleti, no? Ecco, io vorrei chiedere a chi pensa questo, rispettando la posizione, ma secondo voi Vanessa Ferrari piangeva perché le erano sfuggiti 30.000 euro quelli che sono per il bronzo, o piangeva perché era il sogno di una vita, di una carriera che svaniva, no? Bravo, perché Leo, quando bravo. Si fanno questi discorsi bisogna tener conto che questi campioni, che riescano o meno nell'impresa, si preparano per anni, Iori lo sa benissimo, non lo fanno certo pensando a quello che arriverà sul conto in banca alla fine, no? Forse. Lo fanno forse, per quello che è un sogno, forse. Hai capito? Ma è chiaro, Leo. E poi ti esce male una diagonale, sul podio non ci vai e ti rendi conto dolorosamente che quello per cui ti sei tanto speso o spesa, alla fine non l'hai ottenuto. Ecco, pensate anche a questo quando fate della demagogia da quattro soldi. Quando fate della demagogia da quattro soldi, Iori Checchi, hai qualcosa da aggiungere a questa dichiarazione? Che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Leo, che dite voi. È evidente che un atleta cerca di ottimizzare anche da un punto di vista economico. Ci sono degli sport, cioè abbiamo vinto 5 medaglie d'oro nel tiro. Ora, uno come Campriani, un mito, ha vinto 2 medaglie d'oro. Ma io penso che sia anche molto giusto che riesca ad ottimizzare anche da un punto di vista economico in questo contesto. Ma è chiaro, ve lo posso assicurare, che non c'è un atleta, uno, che gareggia pensando al denaro, al premio in denaro. Su questo sono assolutamente d'accordo. Poi certo si può dire tanto, poco. Io credo che chiunque, dallo sport più popolare a meno popolare, ha l'onore di rappresentare l'Italia nel modo migliore possibile, vincendo una medaglia alle Olimpiadi, devo dire che deve essere giustamente premiato. Ma anche chiaro, Iori, ma ascolta, ma uno guarda te agli anelli in Mondovisione, non guarda me o Leo Turrini o il nostro regista, guarda, nonostante guarda che sappiate fare molto bene gli anelli, no, so, lascia stare, cioè gli atleti sono, ma questo è un discorso molto, molto lungo e molto ampio, gli atleti sono comunque degli artisti, sono dei personaggi infungibili, le Olimpiadi in TV sono l'evento più importante del mondo anche dal punto di vista dei palinsesti e dei diritti televisivi. Allora, siamo onesti, siamo chiari, non si guarda la televisione, non si seguono questi eventi per vedere me o Leo Turini agli anelli, ma si seguono per vedere Yuri Chechi. Io sono d'accordo, però mi si sta sottovalutando un po', perché agli anelli sì, io, come Yuri sa, non ero poi malissimo. No, alle Olimpiadi di St. Louis non eri male. Posso confermare. Quando ero giovane. No, io a Yuri Chechi invece... Sarebbe bello vedere Turrini agli anelli, sì, mi piacerebbe molto. Devo anche dire. A me. Quello potrebbe essere un evento televisivamente molto interessante, agli anelli mentre parla di Formula 1. No, a Yuri Chechi volevo chiedere ancora questo, prima di salutarlo e di lasciarlo ai bagni a Copacabana con grandissima invidia. Una delle immagini, per dire, dell'Olimpiade è stata ieri quella del cinese che alle parallele... Da strafavorito è caduto, ha sbagliato l'atterraggio e l'immagine è stata quella della sua faccia mentre ha capito che stava per mettere il sedere per terra. Questo bisognerebbe mandarla a tutti quelli che parlano di premi mica premi, no, Yuri? Sì, è così. Poi sai, quando sei in una finale olimpica davvero provi a dare il tutto per tutto e molte volte anche, perché davvero l'Olimpiade è una cosa, credetemi, particolare, ci sono delle tensioni, delle emozioni, perché alcune volte vincono degli atleti praticamente sconosciuti che arrivano solo, che vincono loro alle Olimpiadi, perché certamente hanno del merito da un punto di vista tecnico, ma perché ci sono delle situazioni, delle tensioni nella finale olimpica che anche i grandi campioni certe volte non riescono a gestire, e allora aprono le porte a degli outsider, diciamo, perché l'Olimpiade è questo, ti dà grande responsabilità, grande emozione, ma certe volte sbagli perché è l'Olimpiade ed è una cosa diversa dal mondiale, dall'europeo, da tutte le altre gare. Ti chiede un sacco di cose, ti chiede un sacco l'Olimpiade. Grazie Yuri. Grazie, buon bagno. Grazie a voi. Non è ancora finita per l'Italia, attenzione. No, ti gode ancora, ragazzi. Come no? Adesso aspettiamo che gli sport di squadra che promettono benino. Ci risentiamo, esatto. Yuri, un abbraccio forte. Ciao, abbraccio fortissimo. Yuri, ciao. Leo, mi raccomando, alla Caipirinha prossima, invitami che... Facciamo una riunione seria. Ma non fidarti di Turri, ma va, è un ingordo, è un totale individualista, è un personaggio molto egoista, Leo Turrini, non ti inviterà mai. Sono sport individuale e sport di squadra, accettiamolo come. Ti abbraccio fortissimo, ciao, seguo sempre con grazie, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Traffico, Leo Turrini, stai lì, nonostante io abbia scoperto le tue carte, perché ti conosco bene, ma ti voglio un gran bene, stai lì, traffico. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva, a lui bisognava tirargli la bomba. Bam, bam, bam. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Ai 25 metri, ottima la prestazione di Anthony Irvine, l'americano in corsia numero 3 che cerca di sorprendere il francese che recupera nel finale, comunque un arrivo molto compatto e alla fine la spunta proprio Irvine, incredibile a 35 anni, Anthony Irvine è oro olimpico a distanza di 16 anni da quando lo vinse in questa gara a Sydney 2000, assurdo! Leo, non ti sei offeso, vero? No, anzi, io vorrei solo sfidare non Yuri, ma Ginta agli anelli, perché questo dubbio che tu hai fatto trasparire, che diciamo io non sarei competitivo, hai capito? No, io ma lo eri a St. Ormai Louis. Sono permeato di spirito olimpico, quindi eccomi qui. Allora io agli anelli in questo momento no, anche perché ho un braccio solo, ma comunque lascia stare, sono questioni di salute fisica. Ti ho fatto sentire Irvine perché questa io credo sia una storia che ti vuole aver appassionato, no? Questa di Revenant Irvine risalito dall'inferno 16 anni dopo Sydney e dopo essere passato attraverso varie cose da cui può passare un essere umano sotto i riflettori, ma sai, lo sport a questo di bello, soprattutto lungo blackout, droga, tentato suicidio, eccetera, no? Eccetera, sì. Che ti offre sempre la possibilità di riprovarci. Se noi guardiamo un po' la storia dei giochi, così le vicende di atleti maschi, femmine, che magari erano già stati protagonisti, poi erano stati inghiottiti talvolta anche, insomma, da da storie personali non brillantissime e che hanno trovato la motivazione per ricostruirsi proprio una vita desiderando tornare alle Olimpiadi. Ecco, io e te l'abbiamo ripetuto spesso in queste settimane, no? Avrai sentito che anche oggi hanno arrestato un dirigente del CIO che pare certo vendesse i biglietti al mercato nero. Beh, un dirigente del CIO, sai, l'equivalente del Malagò irlandese. Sì, io ti dico, ero qua, sono qua e ho visto, avevo notato che a diversi eventi non c'era il pienone, no? Non so, le gare di Phelps, talvolta le piscine erano semideserte, persino ai 100 metri di Bolt lo stadio del Botafogo non era pieno, no? E forse adesso cominciamo a capire perché. Perché questa storia, almeno secondo la tesi dell'accusa, della magistratura brasiliana, che ci fosse un'organizzazione parallela di dirigenti del Comitato Olimpico Internazionale che vendevano i biglietti ai bagarini per fare i soldi loro e poi ovviamente chi doveva rivenderli certo non andava a cercare la classe media piccola brasiliana, no? Infatti qui sono tutti indignatissimi per questa storia. Ora ci sono queste cose in un contesto gigantesco, enorme come le Olimpiadi, e sono scoraggiati, però poi alla fine sempre ci sono anche gli atleti, no? Cioè, queste storie umane, nel bene e nel male, la vittoria e la sconfitta sono meravigliose. Prima abbiamo parlato di Lupo, no? Il nostro beacher che un anno fa scopre di avere un tumore al testicolo e deve smettere di giocare, ha paura che tutti abbiamo quando ci attraversa la strada un male brutto, no? E riesce a venirne fuori e domani notte gioca per la medaglia d'oro. Cioè, queste sono le cose che dovremmo, io penso, raccontare, valorizzare e fare amare soprattutto dai bambini, dalle bambine, perché sono dei bei esempi. Noi viviamo in una società nella quale c'è bisogno di esempi. Mi scuso per il tono retorico che sto assumendo, ma insomma, allora, sono qui e non riesco a dissociarmi. No, ma tu hai letto qual è stata la parabola di Irvin, no? Di questo nuotatore americano che ha vinto le Olimpiadi, ha vinto l'oro a Sydney e poi è sprofondato in un abisso, fatto di depressione, di droga, di alcol, un tentato suicidio, e non è riuscito a ritrovare la strada fino a quando, e non è questione di retorica, è questione del racconto di una vita, del racconto di una storia, fino a quando si è messo, lo hanno convinto ad allenare i bambini nelle piscine. Da lì in poi è risalito, è tornato ad essere un nuotatore ed è tornato nel punto più alto in cui un nuotatore può essere al mondo, e cioè ad un oro olimpico. Assolutamente, è quello che ci stavamo raccontando. Io penso che questo sia il fascino immortale dei giochi, perché probabilmente lui, se non avesse intuito di avere la possibilità di ripartire, ricominciare, eccetera, forse si sarebbe perso definitivamente, no? Certo. E invece adesso è anche in grado di portare questa testimonianza di una rinascita ai bambini che allena in piscina. Questi sono dei valori enormi, enormi. Poi io lo so che tu non vedi l'ora di occuparti del campionato di calcio, di Raiola, domenica con Raiola, aspetta, Raiola lasciamelo stare. Però ci sono ancora 2 o 3 giorni di Raiola, lasciamelo stare, che si è comprato la villa di Al Capone per 9 milioni di euro. Lasciamelo stare perché è un idolo assoluto. Ho sentito, so che i nipoti di Elliot Ness stanno già facendo la ronda. No, vabbè, si fa per scherzare. Comunque sì, penso che avremo nostalgia di questo Olimpiade di Rio quando sarà finita. Ecco, questo volevo arrivare a dirti. Sì, avremo nostalgia di sicuro, come ci capita ogni volta che finisce la festa e rimangono i bicchieri da lavare. Ma comunque, tra Bolt, il santo, l'acqua santa, che oggi leggevo, lui mangia solo pollo non fritto, riso, si sveglia tra le 8:30 e le 9, fa colazione con cereali, molta frutta e pane tostato su cui spalma miele marmellata, e poi va ad allenarsi come un pazzo furibondo e poi va a dormire entro le 22, Asafa Powell, suo compagno di stanza, permettendo. Questo è Usain Bolt, e non si concede alcuna distrazione al villaggio olimpico come invece fanno tutti gli altri. Questo io non lo so, però vorrei invitare chi sta sveglio a guardare le semifinali di 200 metri, fatemi questa cortesia: seguite un atleta di Trinidad Tobago. Si chiama Rondel Sorrillo. Ora lei, gente, che è il più bravo conduttore radiofonico in Europa, mi chiederà: ma chi cappero è Rondel Sorrillo? Perché noi perdiamo tempo a parlare di Rondel Sorrillo? Me lo stai dicendo tu. Rondel Sorrillo è l'ultimo essere umano ad avere battuto Usain Bolt in una gara alle Olimpiadi. Erano le batterie dei 200 metri a Pechino. Bolt aveva già vinto i 100 e quindi affrontò la batteria rilassatissimo, e questo Rondel Sorrillo vinse in 20:58 la batteria. Bolt naturalmente rallentò 80 metri dal traguardo e tagliò la linea per secondo a 80 metri dal traguardo da Rondel Sorrillo. Sì, rallentò, infatti fece poi una gara mostruosa in finale, eccetera. È stradominante. E Rondel Sorrillo, che in vita sua non ne ha mai azzeccata una, no? Perché non so nemmeno se riesca a essere campione nazionale di Trinidad Tobago, però a Trinidad Tobago è un mito, perché dopo Bolt tutte le altre batterie a Londra, i 100, i 200, qui, eccetera, è sempre arrivato uno, come dicevano quelli che avevano studiato una volta, hai capito? C'è questo tizio, se state svegli fate il tipo per Rondel Sorrillo. Io sono disposto a mettere tutto quello che ho in tasca, che non ci va in finale Rondel Sorrillo. Non credo neanche io, però la medaglia deve aver battuto Bolt. È un personaggio olimpico. Ricordate Rondel Sorrillo, Trinidad Tobago, 200 metri. E si è costruito una carriera sul fatto di aver battuto Bolt in una batteria in cui Bolt correva. No, lui ha raccontato che quando torna al suo paesello, comunque tutti gli offrono la cena sempre fuori, perché dico: tu sei quello che ha battuto Bolt, l'ultimo che ha battuto Bolt. Si è risolto la vita. Meraviglioso, praticamente questo campa gratis perché una volta in una batteria a Pechino ha battuto Bolt. Senti, rispondiamo insieme ad Alessio, poi ti lascio andare, Leo. Sì. Alessio, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Dunque, sentendo dire che un atleta porta a casa un bel ammontare di 150.000 euro, ma se invece è la squadra di pallacanestro o di nuoto, cosa succede? Di pallacanestro o di nuoto? Pallacanestro? Sì, no, o di nuoto, di pallacanestro, oppure quando è composta da più da atleti, da più giocatori che si prendono il premio. Di più giocatori, esatto. Che si prendono il premio, ma non resto ad ascoltare, sì. No, ma non c'è molto da dire, si prendono il premio come è legittimo, Leo Turrini. No, beh, io capisco la domanda del signore, ma la medaglia d'oro anche quando lo si vince a squadre è individuale, certo. Poi noi ne abbiamo parlato ieri, io su questo sono molto sereno. Se in Italia pensiamo che sia sbagliato che il movimento sportivo venga finanziariamente appoggiato da strutture pubbliche, come nei fatti è il CONI, va bene, possiamo dire facciamo lo sport al massimo livello, le federazioni per le Olimpiadi eccetera, esclusivamente con supporto economico stanziato da privati. Possiamo anche fare questo tipo di operazione, non lo vieta nessuno, a patto che poi dopo siamo tutti se d'accordo. I privati i soldi non ce li vogliono mettere o ne mettono pochi e i nostri ragazzi e le nostre ragazze non hanno gli impianti per allenarsi o per avere i materiali adatti per essere competitivi eccetera, dopo che non si venga a dire ma invece di fare 25, 26 quelle che sono medaglie alle Olimpiadi ne facciamo 8 e siamo un paese del piffero. Sì, a me poi va tutto bene, basta solo essere coerenti su questo. Sicuro, poi mandiamo anche le spedizioni, le delegazioni olimpiche italiane con gli aerei degli sponsor privati non in business class e poi ridiscutiamo su varie questioni politiche e sui soldi che diamo ai parlamentari a vita, ai senatori, ai deputati eccetera eccetera. No, allora apriamo una lunga tutto, discussione, ci sto anch'io, però secondo me stiamo discutendo e stiamo facendo della demagogia su quisquiglie, come avrebbe detto il grande Totò. Leo, noi ci sentiamo domani. Sì, io adesso vado a fare un allenamento agli anelli, perché qui al Maracanazinho comincia Stati Uniti, Polonia, io la guarderò appendendomi, perché mi hai lanciato una sfida. Sei veramente permaloso, posso dirti, sei veramente permaloso. Quando verrà il momento, hai capito? Ci siamo, ci siamo. Ciao Leo, a buon domani. Lavoro maestro, ciao Leo Turrini, ciao, a domani. Ciao, ciao. GR, torniamo subito dopo. Figa, fuga di Kifle è stata placcata. Tutti convocati. Figa, fuga di... Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Tutti convocati alle Olimpiadi. Perché piangi? Perché mi vengono in mente tutti i sacrifici che abbiamo fatto, tutto il lavoro, tutti gli anni di delusioni in cui abbiamo tentato che non avremmo mai vinto niente. Difficile farlo, ma prescindendo dall'avversario, come si arriva in questa finale? Si arriva che ricarichiamo le pile e giochiamo per vincere. Questa che avete sentito al microfono di Dario Ricci in lacrime, un'intervista molto bella, Teresa Frassinetti del Sette Rosa femminile, che lo ricordo, come abbiamo raccontato in cronaca in apertura di questo appuntamento olimpico, ha battuto 12-9 la Russia, si è qualificata per la finalissima delle Olimpiadi, dove affronterà la vincente tra Ungheria e Stati Uniti, che giocano alle 20:30 ora italiana. Vi do qualche altro risultato parziale, quello del calcio, dove nella semifinale del pallone, per l'appunto, il Brasile sta distruggendo l'Honduras 4-0 per la squadra brasiliana. E vi do anche la prima semifinalista del torneo di basket, che è l'Australia, che secondo me, non così a sorpresa, ha battuto la Lituania alle 19:30 ora italiana. C'è Spagna-Francia, altro quarto di finale del basket, aspettando il clou, che secondo me non è Stati Uniti-Argentina, ma è Serbia-Croazia. Carlo da Bologna, buonasera, 800-24-0024 è il numero verde, grazie per esserci venuto a trovare, per aver risposto alla convocazione, buonasera. Buonasera e soprattutto grazie a voi. Allora, due cose, innanzitutto orgoglioso di essere italiano con tutti questi atleti che ci stanno portando luce nel mondo. Chi fa le discussioni per i 150.000, i 200.000 della medaglia non ha capito niente. 150, siamo precisi. 150. Di quello che è lo sport. Di quello che è lo sport. Ma un ringraziamento a Turrini, se non sbaglio si chiama. Leo Turrini, certo. Ha parlato di questi eroi che non vincono, ma che sono di esempio per il loro comportamento. Noi abbiamo bisogno di eroi buoni, non abbiamo bisogno dei ladri, degli assassini, della gente che fa scandalo, abbiamo bisogno di gente che è di esempio a tutti. Sì, sì, e Carlo, ma preferirei parlare di grandi atleti normali, non tanto, sì, di eroi. Di atleti normali che fanno cose normali, ma che però per oggi sono eroi perché nessuno ne parla. E ci meravigliamo poi perché qualcuno ha il coraggio di dirlo, e grazie a voi perché lo avete detto. Dovete dirlo tutti i giorni, tutte le ore. Allora, caro, io la ringrazio molto, ma non, ripeto, non si tratta di eroi, si tratta di atleti professionisti che fanno quel lavoro e che si allenano per fare quel lavoro in tutta la loro giornata. Ora magari a chiunque di noi piacerebbe fare l'atleta professionista, sarebbe piaciuto in passato, quando era il tempo, fare l'atleta professionista. Magari qualcuno ci ha provato, non tutti ci sono arrivati in uno sport o nell'altro, però fare della demagogia su questa questione di premi che tutto sommato mi sembrano una cosa normale per dei lavoratori infungibili, lo ripeto, perché un prestatore d'opera può essere fungibile oppure no. Io posso chiamare un bravissimo artigiano oppure posso trovarne un altro, ma di atleti al vertice assoluto al mondo che partecipa alle Olimpiadi, beh, ci sono quei tre che vanno sul podio in ogni disciplina, non è che ce ne sono mille. Quindi trovo demagogico aprire questa discussione sui premi da 150.000 euro lordi per una medaglia d'oro, 75.000 euro lordi per una medaglia d'argento e 50.000 lordi per una medaglia di bronzo. Io saluto e ringrazio, aspetta, prima di salutare e ringraziare, lo farò dopo, andiamo in questo audio. Il che equipaggio azzurro è secondo, ne hanno ancora in questo finale. L'Australia, l'Italia è seconda, ed è in finale con Nicola Ripamonti e Giulio Dressino. Una bellissima semifinale dei due atleti lombardi. Dunque, questo è il finale della semifinale, perdonate la ripetizione, della K2 maschile canoa, ovviamente. Avevamo promesso di tornare a disturbare Josef Aidem. Buonasera signora, signora delle Olimpiadi, buonasera. Buonasera a tutti voi. Josef, questa spedizione del remo com'è? Prima di andare su altri argomenti, perché mi sto un po' adirando, però dimmi di questa spedizione del remo. Ma diciamo così, penso che ormai chi segue un po' la canoa sa che questi equipaggi azzurri sono entrati grazie ad una serie di squalifiche per doping. Detto ciò, va anche sottolineato che in realtà Ripamonti e Dressino si erano qualificati l'anno scorso. Lo schema di qualificazione dell'ICF in realtà poiché era uguale al 2011, se fosse stato interpretato come nel 2011, erano già qualificati l'anno scorso. Poi non si sa cosa è capitato, siamo gentili, diciamo così, e si sono visti fuori. Uh-huh. Sono lì, avevano già dimostrato una bellissima alchimia l'anno scorso, e avevano interpretato una bellissima finale anche l'anno scorso. E direi che adesso tutto è possibile, lo hanno fatto vedere oggi, ho ascoltato le parole dei due ragazzi dopo la gara. Dressino ha detto io ne avrei ancora. Uh-huh, quindi uh-huh. Tutto è lecito sperare per la loro finale. Senti, ma dopo alcune generazioni di fenomeni di cui tu hai fatto parte, peraltro, sia nella canoa che nel canottaggio, possiamo dire che questa è l'Olimpiade della ricostruzione del settore? Ma ricostruire significa guardare anche un pochino quello che fanno gli altri e poi cercare di orientarsi alle nazioni vincenti. L'Ungheria ha una grande tradizione, la Germania è molto scientifica nell'approccio, l'Inghilterra che comunque alle ultime Olimpiadi aveva dimostrato le bellissime prestazioni, aveva fatto un enorme investimento per le Olimpiadi del 2012, pensiamo solo al 1996, ricordiamo il 1996, un oro per l'Inghilterra, 2012 io alla fine avevo perso il conto. Mm-hmm. Quindi ricostruire vuol dire prendere spunto dalle grandissime nazioni e investire in tal senso, va bene? Sì. È chiaro che non si poteva, l'approccio giusto non sarebbe stato in passato aspettare che si esaurisse il fenomeno Rossi, Bonomi, Dreozzi, certo, Scarpa, certo, idem, per certo. Poi ripartire. Quello che ci insegnano altre grandi nazioni della canoa è quello che si lavora costantemente, il ricambio è sempre lì, in fabbrica, è sempre in preparazione. Sì, il ricambio è sempre in preparazione e il ricambio generazionale richiede anche investimenti. Allora, arriviamo ad un altro argomento che mi sta a cuore, quello per cui ti dice... E competenze, certo, ma le competenze... Perdonami, Josefa, però le competenze si pagano nel professionismo. Se qualcuno vuole assumermi in un'altra radio, in una televisione, deve pagare la mia competenza. Così come se uno vuole, Josefa Idem, come allenatore, deve pagare per le sue competenze, così come è giusto che sia. Se uno vuole un grande atleta da esibire al mondo, deve pagare per le sue competenze. Ora, sto arrivando, cercando di non perdere la pazienza nei confronti di alcuni ascoltatori, ad un argomento che mi sta molto a cuore. Sintetizzo con questo SMS che mi arriva: voi giornalisti siete una vergogna, Campriani prende 2 ore e si prende 300.000 euro, un dipendente della Guardia di Finanza ha già il suo stipendio pagato. Ora, secondo me si fa un sacco di demagogia su questo discorso dei premi olimpici, dei premi alle medaglie, ed è gente che forse non capisce fino in fondo qual è il valore per il paese, per il nostro paese, qual è il valore dello sport in generale, perché gli sportivi possono essere paragonati agli artisti. Ora inviterei questi signori a dirmi se non vanno a vedere un film di Brad Pitt o di Julia Roberts, se non comprano un disco di, che ne so, Britney Spears piuttosto che di chi vuoi tu, artisti comunque infungibili che sono pagati a peso d'oro. E ora non capisco perché sullo sport si debba fare tutta questa demagogia. Scusami lo sfogo pubblico. Allora, io direi che possiamo calmarci cercando di spiegare come funziona il sistema sport, va bene? Questi qui sono ragazzi che sono dei grandi professionisti, tutti gli atleti che vanno alle Olimpiadi, anche quelli che non ce la fanno, sono persone che sono dei professionisti a tutti gli effetti, si allenano 6, 7, 8 ore al giorno, va bene? Però per la legge sono dilettanti. Poi noi qui in Italia abbiamo i corpi militari che permettono ai ragazzi di avere da che vivere, certo, va bene? Certo. E sono degli stipendi dignitosissimi, ci sono tante famiglie che con uno stipendio così mandano avanti proprio intere famiglie, però io credo che un paese che poi dopo dimostra il suo riconoscimento nei confronti dei grandi campioni che si sono distinti per il paese e che ci hanno reso orgogliosi, sia una cosa che non sia fuori misura. Guardiamo soltanto, adesso l'Italia è quinta nel medagliere, sesta, adesso non seguo al decimo. È settima che se la sta giocando con la Francia, 8 ore ciascuna. Ecco, io questa mattina avevo guardato, quindi siamo comunque lì. In un'ottima posizione per quanto riguarda il medagliere, a mio avviso. Però se poi andiamo a vedere nazioni come gli Stati Uniti, la Cina, Gran Bretagna, che sono dei piglia tutto nel medagliere, negli sport che poi fanno vincere tantissime medaglie, ginnastica, nuoto, atletica leggera, si capisce che questi sono paesi davvero che investono e che definiscono la propria immagine come paese anche attraverso lo sport. Ora, noi non pretendiamo tanto, però avere il riconoscimento per persone che comunque rendono orgoglioso il nostro paese e dover discutere di questo, ritengo che sia proprio una discussione per parlare. Molto, molto demagogica, Josef, molto demagogica, ma della demagogia, come avrà imparato stando per tanti anni nel nostro paese, noi ci nutriamo un po'. No, volevo chiederti un'ultima cosa, invece, che è, a mio avviso, una delle particolarità di questa Olimpiade, e sta nella presa di posizione di un sacco di grandi atleti contro il doping, perché io non avevo mai visto né sentito atleti di punta parlare così dei loro colleghi. Come valuti questo fenomeno? Allora, io ho un atteggiamento di base ed è proprio molto di sinistra. Chi sbaglia deve pagare, ma quando ha pagato deve avere una chance per rientrare. E questo, cioè, non esiste da nessuna parte che chi ha sbagliato poi dopo, cioè, viene punito con l'ergastolo, va bene? Sì. Questa è una cosa, una mia grande convinzione. L'altra convinzione è quella che va fatto un antidoping efficace, credibile, a scala mondiale, con istituzioni indipendenti che vengono da parte di chi deve fare le norme, per così dire, vaccinato contro ogni corruzione, contro ogni manipolazione. E in questo ambito vanno assolutamente anche protetti gli atleti. Perché se noi pensiamo alle rivelazioni della TV tedesca che hanno scoperto che, a quanto pare, i servizi segreti russi a notte tempo, mentre la Vada dormiva, entravano nei laboratori per manipolare le prove, sì. È anche vero che chiunque può fare una cosa del genere, ed allora diventa altrettanto vero che gli atleti hanno l'obbligo di essere puliti, devono essere testati, devono essere puniti se sono dopati, ma vanno anche protetti dalle manipolazioni. Quindi, sono d'accordissimo. Maniera molto globale la mia opinione sul doping: va combattuto, ma in maniera credibile e efficace, e gli atleti devono rispettare le regole, ma vanno assolutamente anche. D'accordissimo, Josefa. La parola chiave è indipendenza delle istituzioni, secondo me. Nella spiegazione perfetta che hai dato, la parola chiave è indipendenza delle istituzioni antidoping, altrimenti forse, non c'è garanzia. Forse l'indipendenza non sempre si può garantire, perché poi l'accesso alle federazioni, eccetera, ci vogliono, quindi delle interfacce nazionali possono essere necessarie, però vanno comunque messi dei meccanismi a tutela, la massima trasparenza, lo spoil system, il turnover, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di antidoti alle manipolazioni che vanno comunque introdotte. Grazie mille signora. Grazie mille signora delle Olimpiadi, Josefa Idem. Ci risentiamo. Grazie a voi. Ciao. E poi buon proseguimento. Ci grazie. Grazie davvero. 800 24 00 24, se volete intervenire, siamo qui fino alle 20. C'è chi mi domanda: infungibile, dove lo hai trovato? Il termine infungibile me lo domandano via SMS, è un termine giuridico. Io sono certamente uno fungibile, perché se non sono qui arriva un altro al mio posto. Invece Josefa Idem, come Yuri Keki, come chiunque abbia vinto una medaglia olimpica, è un lavoratore infungibile, nel senso che non posso andarci io e neanche chi scrive a fare quelle cose che fanno loro alle Olimpiadi. Ci sentiamo dopo. Figa fuga di Kifle è stata placcata. Tutti convocati. Figa fuga di Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Lupo per chiudere. Tagliare! Sì! Siamo in finale! Sì, storia! Entra nella storia due volte! Yes! Italia in finale! L'Italia è in finale! L'Italia era sull'orlo dell'eliminazione! Li hanno messi a giocare in un campo secondario il match del Lucky Loser! Di notte hanno vinto e sono arrivati in fondo! Questa medaglia è per tutti i pitchers italiani! Sì! Ebbene, abbiamo parlato prima, ma torniamo a farlo con grande piacere. Abbiamo parlato prima con Leo Turrini di questa finale del beach volley. Leo Turrini è molto ottimista, nonostante il Brasile sia ampiamente favorito, sono i più bravi di tutti, ma è un piacere sfidare comunque i brasiliani, sfidare comunque i più forti. Eugenio Amore era uno dei nostri beach vollers alle Olimpiadi di Pechino 2008. Ciao Eugenio, grazie. Ciao, buonasera a tutti. andiamo a petto in fuori e con un discreto ottimismo a giocarci la medaglia d'oro. Possiamo farlo? Assolutamente sì. Il Viciolo ci insegna che non c'è un risultato scontato, perché se si guardano le partite anche di altissimo livello, ci sono dei set che finiscono per una squadra a 12, per l'altra del set dopo perdi a 12 e poi te la giochi tutto nel terzo, quindi di scontato non c'è niente. Sicuramente Allison e Bruno sono adesso hanno uno step in più, però noi abbiamo Nicolai, che a muro è veramente fastidioso per qualsiasi giocatore di altissimo livello, e Lupo, se continua a tenere il cambio palla come ha fatto con Krasilnikov e Semenov in semifinale, è veramente dura anche per un giocatore come Bruno, che ad oggi è sicuramente il difensore e il contrattaccante, perché bisogna pensare che il difensore deve poi contrattaccare più forte che c'è in circolazione. Sì, poi bisognerebbe spiegare anche al grande pubblico com'è possibile avere delle coppie così forti, e ci metti in mezzo anche te, in un panorama mondiale in cui ci sono i brasiliani, in cui ci sono gli americani, i californiani, gli hawaiani o chi vuoi tu, è difficile spiegare al grande pubblico come noi si riesca comunque a raggiungere questi livelli di eccellenza. Assolutamente, vabbè, noi abbiamo una cultura comunque pallavolistica che sì non è il beach volley che aiuta molto. Prendiamo l'esempio, Nicolai era comunque uno dei giocatori di pallavolo che poteva avere grandissimo successo anche indoor come palleggiatore. Lupo invece, per esempio, è un biceps puro, come si dice, non ha mai toccato il parquet, viene dalla sabbia, ma si vede anche da come esprime il suo gioco, che non è assolutamente pallavolistico, ma è picciarolo, come si dice gergo. No, adesso è un periodo che l'Italia negli ultimi 4-5 anni sta veramente sul tetto o nel soppalco, insomma, è sempre lì. E, vabbè, la generazione mia non era di quel livello lì assolutamente, eravamo molto più gladiatori, però non eravamo forti come quelli che ci sono adesso. Non mi ci voglio paragonare, siamo stati degli ottimi precursori, diciamo, perché siamo stati i primi il primo gruppo nazionale, però era un'altra cosa. Certo, io mi ricordo Claudio Galli, mio amico, non lo vedo da un sacco di tempo, però lui era comunque passato dall'indoor alla sabbia con ragno, grandi risultati. Ragno, esatto. Io mi domando, è un discorso che abbiamo fatto anche ieri a proposito del ciclismo, su strada e su pista, sì. Esiste questa permeabilità tra le due discipline, cioè tra la pallavolo indoor e quella sulla sabbia, o sono specialità diverse? Allora, sono specialità diverse, sono caratteristiche un po' più, diciamo, all round, come si fa per le macchine. Cioè, bisogna saper fare un po' tutto, magari qualcosa con meno specializzazione, e poi ci vogliono caratteristiche di movimento sicuramente più elevate rispetto all'indoor, nel senso i piedi, bisogna avere dei buoni piedi per giocare a beach volley, quindi magari pennelloni, come si dice in gergo, sì, che sono in indoor, che possono essere fortissimi in indoor, non è detto che siano forti a beach volley, anche se la nuova generazione di beacher, tipo gli olandesi, tipo i russi, sono 2,10 metri, se si riesce ad adattare il gioco a loro, diciamo un 2,10 fa un passo, arriva dove uno piccolo ne ce ne mette 3, quindi anche se è più lento arriva lo stesso a coprire il campo. Comunque sono caratteristiche, nel passato grandi pallavolisti hanno fatto molto bene anche a beach volley. Inversamente, di solito chi nasce beacher o chi è beacher è sempre stato un po' più basso, quindi a altissimi livelli non è arrivato nella pallavolo, sì. Quindi è un po' diverso, però non è detto che da uno non si possa passare all'altro non avendo risultati. Certo, questo lo raccontiamo a un altro mio amico, che è Andrea Zorzi, che ho sentito anche ieri, che lui adora andare a fare torneo di beach volley in California. Beach volley a 6, però pallavolo sulla spiaggia, e lui diventa matto per andare là a fare questo torneo, ma non raccontargli che non può fare il beach volley, perché sennò magari si arrabbia. Senti, io ti ringrazio molto, ti lascio, saluto con questo messaggio vagamente polemico di Franco da Mantova: grande Italia nel beach e Marta sarebbe arrivata sul podio con la solita compagna, bene negli sport di squadra, segnale di salute. Vabbè, quella è una altra storia, questa è un'altra storia. È difficile entrare in merito a queste cose qui. Sicuramente Marta Menegatti è una delle giocatrici più forti che c'è sul panorama femminile, quello che è accaduto, poi ne parleranno chi di dovere. Certo, sono d'accordo con te. La Giombini ha dato tutto, era giustissimo che andasse lei, che non andassero altre persone, perché è quella che si è spaccata per 4 anni allenandosi e ha dato quello che poteva dare. Sicuramente una coppia che nasce, come poi è stato con, quando io ho fatto con Lione nel 2008, che andai al posto di Matteo, non è di Varnier, non è così facile trovare subito il feeling per avere il risultato massimo. Poi certo, uno può avere un buon risultato, ma avere il risultato massimo è veramente difficile. Grazie Eugenio, a presto. Di niente, grazie a voi. Torniamo a disturbarti per la finalissima. Grazie. Sì, sì, sì. Molto volentieri. Grazie, buon lavoro. Eugenio Amore, olimpionico a Pechino nel beach volley. Marco, buonasera. 800240024, il nostro numero verde, 349-238-6666, WhatsApp e messaggi. Dica Marco. Sì, buonasera. No, io volevo dire una cosa velocissima in merito alla polemica sulle medaglie, sui premi delle medaglie. Credo, intanto trovo ridicolo queste polemiche, perché poi coloro che si lamentano sono quelli che vanno allo stadio a vedere pluricampioni strapagati. Beh, fanno benissimo, peraltro. A vederli sì, sicuramente, però poi il giocatore che prende 15 milioni di euro, che vinca o non vinca il campionato, li prende lo stesso. Questi giocatori, questi atleti, questi fenomeni che si allenano per anni, per poi avere delle probabilità bassissime di ottenere un risultato, per 150 mila euro la trovo veramente una polemica. No, però, attenzione Marco, io allora non so di essere impopolare, ma non mi importa nulla, perché altrimenti non farei questo lavoro. Però io non mi scandalizzo per i 15 milioni di euro che prendono i giocatori, perché sono le leggi del mercato. Quindi chi li vuole andare a vedere ha tutti i diritti di spendere 40 euro per andare in curva o di spendere centinaia di euro per fare l'abbonamento alla Pay TV, e non c'è niente da dire. No, è assolutamente corretto e legittimo. Non vorrei però fare della demagogia su questi discorsi, perché torno a ripetere, sono semplicemente leggi di mercato. Quindi stare a discutere su questi premi per le medaglie, cosa che accade puntualmente ad ogni Olimpiade, la trovo particolarmente mortificante. Semplicemente questo. Poi posso leggere un miliardo di messaggi tipo questo: certo che state facendo una campagna a favore degli alti premi, che vi va poco onore Diego, non mi importa se ci faccio onore oppure no, io semplicemente esprimo quella che è la mia il mio pensiero, la mia opinione. Se avete altri pensieri o altre opinioni, prego, 800240024, ma possiamo discutere insieme nella maniera più tranquilla e civile possibile, ci mancherebbe altro. Grazie Marco da Parma. Saluto un collega di Repubblica che è Ettore Divini, ciao. Ciao, ciao a tutti. Che si trova in Brasile anche per seguire un altro tipo di Olimpiade, per monitorare, è il caso di dire monitorare, un altro tipo di Olimpiade. Quale, Ettore? Sono le smanettiadi, il presidente delle Olimpiadi dei videogiochi, non i giochi olimpici tradizionali, ma una sfida che è stata organizzata con la sponsorizzazione del governo inglese ai videogiochi, alle console, dove si giocano tutti i ragazzi del mondo, tra squadre nazionali, impari un oro in quelli che sono dei veri e propri giochi olimpici, diciamo così, di Nintendo, del Wife, di tutto questo tipo di piattaforme che esistono al mondo e che hanno chiesto addirittura un riconoscimento, che è arrivato ovviamente in maniera solamente ufficiosa dal CIO. 8 squadre, i maggiori campioni del mondo della tastiera, che si sono sfidati per 2 giorni qua alla Lagoa, in parte dal campo di gara, si sono fatte le regate del canottaggio per decidere chi sarà il primo olimpico dei videogiochi della storia del pianeta. E magari ci sono anche più partecipanti rispetto alle Olimpiadi a 5 cerchi vere e proprie, perché immagino che ci sia una platea sterminata. La platea sterminata, perché il fenomeno dei videogiochi è poco conosciuto, ma è un fenomeno che soprattutto ragazzi più giovani ha già sbancato, ha fatto saltare l'odio. Dico solo, faccio un paio di esempi per darti un'idea. C'è stata a Katowice qualche mese fa una gara su una piattaforma League of Legends e in 10 secondi sono stati venduti tutti 104.000 biglietti che erano stati messi in vendita online. C'è proprio una platea sterminata di persone che si è seduta sulle sue signorine e si è messa a guardare i ragazzi che si sfidavano delle partite di videogiochi. Il 10% dei canali di YouTube più seguiti sono canali che sono 24 ore su 24, quindi diciamo tra il Maradona della tastiera, per cui c'è un fenomeno in grandissima crescita, di cui si sono accorti anche i grandi gruppi. Amazon ha comprato Twitch, che è una delle televisioni più conosciute che si occupa di questo fenomeno. La ESPN ha cercato di comprare i diritti per 500 milioni l'anno, come se fosse uno sport vero e proprio come il calcio, perché insomma di soldi in ballo ce ne sono tanti e sono soldi che vanno crescendo ogni giorno. Sì, sì, sì, è un business di cui tutti si sono accorti, tanto che c'è anche, non dico un calciomercato, ma un giocamercato di giocatori. Leggevo oggi nel tuo articolo sul Venerdì di Repubblica, c'è un ragazzino, Katz Brown, che è stato, tra molte virgolette, acquistato dal Manchester City. Ma è stato acquistato veramente, cioè Manchester City ha fatto la sua tradizionale campagna acquisti, comprandosi, riempiendo i buchi che aveva nel suo organico dei calciatori veri e propri, carne e ossa, quelli che poi vanno sul campo a giocarsi la Premier, però ha pensato che fosse doveroso completarsi la rosa con questo Kieran Zeta Brown, Zeta è il suo nome, d'arte, che è un ragazzo che non ha mai probabilmente messo il piede su un campo di calcio vero e proprio, ma che ha passato la sua vita a tastiera giocando a FIFA 2016, a tutte le varie evoluzioni del calcio, il calcio online, e l'ha pagato una valanga di così, non l'ha fatto solo Manchester City vuole che questa persona vada a rappresentare i suoi colori in tutti i tornei internazionali di videogiochi con la piattaforma FIFA, ma l'ha fatto anche il Portsmouth, lo Schalke 04, West Ham, anche in Italia, per dire, il presidente Ferrero della Sampdoria, cioè, che sul questo campo guarda più anche degli altri, ha acquistato un suo giocatore qui a sedere la maglia blu cerchiata virtuale per portarla a cercare gloria sui campi. Mi ripeti qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio per un club di avere un super giocatore di videogiochi che indossi in maniera esclusiva la sua maglia? Primo, se ti tieni i diritti e mantieni, diciamo così, un po' controllo sul tuo brand anche nel mondo virtuale, non solo su quello reale. Secondo, sei un fenomeno che ti va a giocare con Manchester City nei grandi tornei, e Manchester City ovviamente anche nella sua versione su schermo ha gli stessi sponsor che ha quando scende in campo veramente sul campo reale, per cui ha grandissimo interesse la dirigenza del Manchester City ad avere un rappresentante che arriva alle finali dei grandi tornei di FIFA 2016, perché avrebbe una visibilità sul proprio brand molto più ampia di quella che sarebbe la sua. Se lo contendono come se fossero proprio dei Neymar, perché come Neymar, come Messi, come Dybala, Higuain, gente che anche se non è di molta visibilità si porta a pubblicità, visibilità che sappiamo benissimo che è la merce più ambita dagli sponsor del calcio mondiale, che sia virtuale che sia reale. Grazie Ettore, buon lavoro. Buon lavoro lì a Rio de Janeiro. Grazie. Oh, finalmente un mio amico, Gianmarco Pozzecco. Ciao Poz, come stai? Ciao caro. bene, grazie tu. Io molto bene, sono qui al Sole 24 Ore, Radio 24, parlo tutto il giorno, immagino che tu sia un po' più felice. Vabbè, di me. Fammi... Almeno non parli da solo. Fammi una radio. Fammi un giornale radio di quelli che fa Vieri su quello che succede lì dove sei tu. Ma guarda, sono stato tirato in mezzo, tra l'altro, in uno dei video di Popo. Secondo te non l'ho visto? No, guarda, io voglio spezzare una lancia a favore di Popo, che è un personaggio secondo me unico. Io ne spezzo anche due o tre, Poz, ne spezzo anche due o tre. L'unica cosa, ci ha preso un po' la mano, ma questo vabbè ci sta, anche perché sostanzialmente non ha molto altro da fare e questo chiaramente va solo che a suo favore. Il problema è che la gente ormai a Formentera sembra che sparchi per andare a vedere a giocare a Bobo Vieri a football, che secondo me ci sta per il personaggio che è stato Bobo, insomma, come calciatore, però è anche vero che l'isola offre molto di più, cioè, sì. Non perché Bobo non sia altamente spettacolare anche quando gioca a football e ha 40 e passa anni, però insomma vabbè dai, ci sta, insomma. Ma lo portiamo alle Olimpiadi, dai, già, ma lo portiamo alle Olimpiadi. lo mandiamo magari, e ci rimandiamo anche te, perché Cioè, maledizione, una delle immagini della, insomma, della mia vita è stato vederti quando piangevi dopo aver perso la finale contro l'Argentina. Io non me lo sono ancora dimenticato e non te l'ho ancora perdonato, eh. Non potevi essere un po' più tranquillo. Con l'asciugamano in testa in quello spogliatoio, mentre c'era Ginobili che parlava con mille radio, con tutti i telefoni. Passa il Poz, Dio buono che piange come un bambino con l'asciugamano in testa. Non te la perdonerò mai. Ma sai, alla fine, devo essere sincero, quello è una sorta di dolore che è passato, perché le Olimpiadi è una manifestazione già particolare. Paradossalmente, lo ripeto, paradossalmente è più bello vincere il bronzo che l'argento, soprattutto sul momento, perché se vinci il bronzo automaticamente nell'ultima partita che hai giocato, che hai disputato, ti sei guadagnato appunto quella che è il desiderio, sì, hai vinto, di quelli che partecipano, di andare sul podio. Se invece vinci tra virgolette l'argento, vai sul podio, sali sul podio dopo aver perso la finale, dopo aver perso la possibilità di vincere l'oro. Poi tra l'altro, per entrare proprio nello specifico, quella partita lì secondo me tutto sommato potevamo vincerla, diciamo, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, potevamo vincerla. Però poi quando passa il tempo è normale che come atleta è più ti inorgoglisci di più dire che hai vinto l'argento del bronzo, ecco. Sì, vabbè, questo è una vicenda un po' anche strana. Perché quella semifinale con la Lituania eravamo tutti in piedi sui tavolini, quindi quella lì non possiamo dimenticarci. Anche quella però vedi, una bella sfiga, perché la cosa più bella secondo me dello sport è vincere per poi poter festeggiare, no? Il problema qual è? Che tu quando vinci la semifinale, noi poi abbiamo giocato esattamente o il giorno dopo o due giorni dopo, addirittura il giorno dopo alla sera tardi, non ricordo bene, esatto, quindi non avevamo assolutamente il tempo necessario per poter neanche minimamente festeggiare, e quindi in sostanza non abbiamo festeggiato mai, e chiaramente dopo la semifinale vinta invece insomma la voglia in tutti noi di festeggiare era prorompente. Sì, un'altra cosa che ricordo di quella spedizione del basket era Bulleri che le diceva in tutte le lingue ai taxisti ateniesi che non si fermavano a prenderlo dopo che era andato a vedere la pallavolo. Ti regalo questa immagine, c'erano lui Garri e Righetti, chiediglielo un po' quando lo vedi. C'era qualcosa di personale, Bulleri sta sul coglione a tutti i taxisti di Atene, cioè, non era un caso. Poi con Garri figura, non ti tiro su neanche. Lui Garri e Righetti. Senti, Garri per Atene girava con questa macchina fotografica, stile cinese, giapponese. Ed era veramente un cretino di proporzioni epiche, perché nessuno voleva andare in giro con lui perché c'era da vergognarsi. Aveva, sembrava un fotografo, ogni volta che entravi in chiedeva: ma voi siete dei fotografi? No, noi siamo la nazionale pallacanestro italiana. E non ci credeva nessuno, perché aveva sta macchina fotografica da 7.000 euro con questo obiettivo gigantesco, e facevamo queste figure grazie a... Sì, ma poi voi eravate al Villaggio Olimpico, io invece ero sguinzagliato in giro, e ricordo ancora Allen Iverson con un gin tonic per mano che vagava nella notte il giorno prima di giocare una partita olimpica. Però queste sono poi adesso non posso dirti per radio quello che faceva Carmelo Anthony e qualcun altro. Invece questa notte Croazia-Serbia siamo avversari, no? Tu Croazia, io Serbia, così? Perché io faccio il tifo per mio amico Sasha Djordjevic, te lo dico chiaro. Tu hai allenato quest'anno in Croazia. Immagino, anch'io faccio il tifo per il mio amico Djordjevic, però chiaramente adesso sono a Zagabria e la guarderò, tra l'altro, insieme a Veljko Mrsić alle 3 del mattino, abbiamo appuntamento a casa sua. Quindi non posso che tifare Croazia, anche perché giocano tra i nostri giocatori, quindi insomma tra i nostri ragazzi. Però devo essere sincero, secondo me alla fine il buon Sale Djordjevic mi sa che la spunta, anche perché con le manifestazioni lì la pressione conta molto, e in questo momento la Croazia, che è arrivata prima inaspettatamente nel proprio girone, invece ha creato quello che secondo me era il suo cioè ha distrutto quello che era il suo vantaggio, che non aveva pressione. Ma arrivando ti... prima tutto ciò cambia, che è quello che è successo ad Atene poi alla Spagna. Spagna, sì, certo, tra l'altro, che certo, ebbe la sfiga di incontrare l'America, che arrivò quarta nell'altro girone, e vabbè, questa è una cosa che va detta. La Spagna in quell'Olimpiade lì perse una volta sola contro l'America, arrivò quinta, noi perdemmo tre volte e arriviamo secondi. Beh, noi abbiamo avuto un discreto culo in quell'Olimpiade, però ce lo siamo meritato e nessuno me lo leva dalla testa, ce lo siamo meritato tutto quanto. Il culo, quella medaglia d'argento rimane uno dei più bei ricordi dello sport italiano, mio caro Giamma. Senti, ti ringrazio. Senti, torna presto perché mi manchi. Niente, te l'ho già scritto va prima. Bene, okay. Torna presto. Va bene. Ciao Gianmarco. Ciao, Carlo, ciao Gianmarco Pozzecco. Perdonatemi la garrambata con il mio amico Poz. Luciano da Napoli. Pronto, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, volevo dire due brevi osservazioni. Dico, contesto quello che lei diceva, che si tratta di demagogia rispetto ai premi da dare agli atleti, anche perché andrebbe fatta una comparazione a livello europeo, dove la Germania, l'Inghilterra non prevedono questo tipo di finanziamento individuale e invece finanziano lo sport dal basso. E poi vivo nella realtà napoletana di quello che lei ribadisce, che per esempio il prezzo attuale di una curva a 40 euro in un contesto sociale napoletano è un'azione totalmente in contrasto, ritengo, anche con delle valenze di natura sociale e anche forse di ordine pubblico rispetto alla possibilità di far sì che lo sport sia una forma educativa, partecipativa e sia uno spettacolo offerto al popolo indipendentemente dalla capacità economica di cui una persona deve avere. Cioè non si può dire si impedisce alla curva di andare a 40 euro, perché se ce l'hai ci vai. Una famiglia non può andarci, un padre non può portare i figli, un operaio non può partecipare. Per cui sono d'accordo sul fatto che i prezzi siano alti, però è uno spettacolo privato, quello che non possiamo. Non è privato perché è sovvenzionato dallo Stato. Perché non bisogna dire che lo sport sia uno spettacolo privato e che il calcio o qualsiasi forma di arte sia privato, perché c'è un ministero dello sport e delle attività. De Laurentiis ci mette i suoi soldi, così come Agnelli ci mette i suoi soldi, e vengono fissate queste tariffe, che lo ammetto sono impopolari, ma io continuo a contestare gli alti prezzi negli stadi, continuo a contestare la politica per l'ingresso negli stadi italiani, perché per me è follia la tessera del tifoso, totalmente inutile, è follia quella sorta di radiografia che viene fatta all'ingresso dell'Olimpico. Su questo possiamo discutere a lungo, sul fatto dei premi per gli atleti italiani, che comunque alle Olimpiadi, che comunque è gente che fa questo mestiere di professione e che stiamo guardando, ammirando e applaudendo in questi giorni alle Olimpiadi, e non voglio mettermi a fare della demagogia, beh, di questo possiamo tornare a parlare serenamente domani, anche perché saremo ancora qui. Io ringrazio Pietro Lacorte in regia, Claudia Schiattone che è il nostro autore, Leonardo Siligato, Lorenzo Rotella in redazione. Ci sentiamo domani per tutti i convocati alle 14 e per tutti i convocati alle Olimpiadi alle 18. Stasera andiamo al casinò, andiamo a sbancare il casinò. Tutti convocati. Ci vediamo domani. Enjoy. Enjoy. Sabato mondo. I love this game.